Buonasera, Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia per 451 frammenti sonori. Sono tornato e da queste parti, insomma, una volta si diceva siamo tornati, prima o poi insomma torneremo anche, ma di fatto insomma in solitaria questa sera Max Macchia. 451 che si occuperà di suoni sintetici, musiche sintetiche. Qualcuno potrebbe dire come se non l'avesse mai fatto, in realtà insomma per ben 4 puntate ci siamo occupati di sonorità più organiche, organic forse direbbero gli americani, definendole insomma suonate con strumenti tradizionali, non che sia particolarmente insomma non tradizionale del synth, lo è diventato insomma dagli anni 70 in poi, è diventato uno strumento insomma anche utilizzato tra l'altro anche in molte performance rock, in molti dischi insomma che si sono succeduti nel corso degli anni, se pensiamo insomma ai Moog, quanto influenzarono insomma buone musiche degli anni 70, quanto rock si è contaminato nel vero senso della parola in termini anche piuttosto interessanti negli anni 80 con il techno pop, techno rock, perché no, e negli anni 90 poi un crossover si potrebbe dire da una parte in termini di post rock, e quindi con un'assimilazione già di fatto delle strumentazioni elettroniche, soprattutto del synth, per arrivare insomma ai nostri giorni, dove di fatto insomma sia le elettroniche pop sia anche proprio il pop nel vero senso della parola si muove soprattutto in questi ultimi anni dentro sonorità che comunque rimandano a sonorità synth come strumentazione o come rimando musicale. Sono anni insomma in cui la retromania ci ha portato appunto a scoprire più che riscoprire, perché molto spesso insomma c'è stata una sorta di dimenticanza di certi suoni, di certe attitudini, e così insomma è successo che quasi a scoperchiare un vaso di Pandora si sono liberati tutti i mali del mondo, quelli che perlomeno prima erano considerati mali del mondo, ovvero musiche non suonate, musiche meccaniche, musiche che comunque si allontanavano appunto dalla tradizionale, che poi non lo fu insomma all'inizio, rock, e ricordiamoci insomma anche quello come nasce, in effetti anche quello nasce come contaminazione e aveva ben poco di tradizionale, se non una continuità con la musica del diavolo e quindi blues, ma questa è un'altra faccenda veramente. Musiche sintetiche quindi dentro percorsi elettronici tra un approccio popular e un approccio invece che ci avvicina di più alle avanguardie, avanguardie chiaramente spurie, non diciamo dentro quella, se vogliamo, scuola e avanguardistica storica o neoavanguardistica, se insomma si può parlare ancora di avanguardie, chiaramente insomma non si può prescindere dal fatto insomma che comunque sono storicizzate, sono dentro insomma un percorso, magari appunto come dire, da queste parti insomma si vorrebbe anche tanto che ci fossero nuove andate d'avanguardia, ma insomma ci vogliono dei momenti storici particolari, bisogna chiaramente crearli e forse per il momento insomma non se ne intravedono, forse insomma non ne vediamo insomma le tendenze. Questo poi è anche uno dei grandi e meravigliosi anche errori che si fanno, le grandi sviste, no? Anche forse in momenti come la rinascita delle avanguardie appunto intorno agli anni 60, forse neanche lì nei primi anni 60 fino agli anni 50 si intravedeva poi quello che sarebbe diventato insomma un'esplosione anche in termini di diffusione di massa. C'erano i prodomi dentro le avanguardie elettroniche europee, Cage in America, scuole, insomma, o parascuole che nascevano nel resto del mondo. È un po' questo il senso, insomma, della trasmissione, andare sia a pescare da quello che è un lascito anche piuttosto importante, appunto, di quelle neoavanguardie, e invece un termine più popolare, più di grande, con veramente grande inteso in senso lato, non chiaramente in termini di commerciabilità di certi esperimenti sonori, anche se poi a ben vedere molte cose sono diventate famose, magari non tramite personaggi che stasera metteremo, ma dopo e attraverso loro figli più o meno legittimi. D'altronde poi arriveremo, appunto, intorno alla fine di 451, di queste musiche sintetiche, proprio a sintetizzare in un certo qual modo quelle che sono alcune attitudini odierne, appunto, che prendono dalle storiche, e partendo appunto dalle storiche, da quelle che abbiamo definito avanguardie spurie. Beh, David Borden, membro fondatore degli storici Mother Mallard, splendida formazione che riusciva magicamente a mischiare le post-psichedelie americane e il suono del synth cosmicheggiante e il minimalismo, veramente un percorso eccezionale, pochi materiali ma assolutamente eccezionali quelli degli anni 70. Andiamo a trovare Borden, cosa fa dopo, proprio in termini anche di quello che porterà anche direttamente e indirettamente dentro poi le attitudini che si svilupperanno e gli esperimenti di fatto degli anni 80. David Borden, infatti, lo andiamo a prendere dal 1978, Counterpoints, il lavoro che l'ha occupato anche per quasi un decennio, appunto dalla fine dei Mother Mallard intorno al 77, per arrivare appunto a metà degli anni 80 con un percorso estremamente interessante, seppur sotterraneo, non più magari dentro anche quel culto che ha avuto sempre Mother Mallard, ma appunto comunque sperimentando ancora con un suono synth e sintetico di fatto, appunto proprio anche in termini dialettici di sintesi, se vogliamo, è proprio quello che sperimentatori hanno appunto cercato attraverso questa e queste strumentazioni elettroniche. David Borden, quindi, da Counterpoints, per iniziare questo 451 musiche sintetiche. We'll be right back. Abbiamo ascoltato appunto David Borden dai suoi Counterpoint, è un progetto che è durato un bel po' di anni. Dopo Modern Mallard infatti si è concentrato per buona parte David Borden su Counterpoint, e questo lavoro che porterà appunto in oltre una decina insomma di non di serie ma di volumi di brani, e porterà appunto a compimento, magari potrebbe anche riaprirlo, chissà, nostri giorni. Comunque appunto Borden intorno alla fine degli anni Ottanta così lascia una testimone che poi verrà ripreso per buona parte in America rispetto a neoviaggiatori più o meno cosmicheggianti, dai vari Onetrix Point Never e ai primi Emeralds e a tutte insomma quelle faccende che vedono tanto in Modern Mallard, come Tonto Expanding Band e come così progenitori, chiaramente passando anche per la Germania dei vari Klaus Schulze eccetera, poi con rumorismi annessi dentro una già musica cosmica, se pensiamo a certi noi e a certi cluster del primo periodo, e viene quindi, come dire, rielaborata questa grande tradizione. Poi d'altronde tradizione si è fatta e si è consolidata nel corso del tempo appunto da una riscoperta. In effetti poi anche in sottofondo abbiamo un'altra storica formazione di quelle che hanno fatto insomma del suono sintetico uno dei grandi momenti insomma delle musiche anni 70 e appunto delle trasformazioni, sì, in sostanza Tangerine Dream, se qualcuno insomma non avesse riconosciuto, è un po' troppo basso magari per appunto arrivare alle memorie di più. E se Borden appunto lavorava in America e faceva appunto questa sintesi tra minimalismo, post psichedelie e una sorta insomma di viaggio dentro una cosmicità tutta americana, Richard Pinat invece con i suoi Eldon negli anni 70 creava una sorta di out prog di suono anche abbastanza allucinante, tra escursioni quasi rumoristiche, però dentro insomma un linguaggio molto riconoscibile come 70s, e invece esperimenti magari portati più sul suono strettamente elettronico, con soprattutto progetti solisti, e personaggio insomma molto legato anche a Gilles Deleuze, e in effetti il suo primo disco si chiama Rhizosphere, trattato tra l'altro qualche tempo fa appunto da queste parti come trasmissione dedicata appunto a Deleuze, se non ricordo male era Buon Natale con Gilles Deleuze, e Pinat in sostanza da Rhizosphere, da Chronologize, Iceland, East West, disco da cui andiamo a trattare un pezzo, a estrarre, e riesce a creare un suono autoctono, se vogliamo, rispetto appunto sia a David Borden e al portato americano e anche a quello krauto insomma tedesco. E Pinat inventa poi un modo che sicuramente è figlio di certo progressive, ma progressive veramente nel termine più ampio, quello insomma di certe formazioni che hanno sperimentato col prog, in primis insomma come non ricordarsi King Crimson, ma lui stesso insomma oltre che Eldon fu anche uno dei Lard Free ad esempio, quindi personaggio estremamente così inquieto e quindi sperimentale di fatto, ecco, in termini non soltanto musicali, visto che poi per molti versi, insomma, un personaggio anche con grossa caratura intellettuale, appunto, non è un caso che spesso facesse, insomma, comunella, diciamo così, con Deleuze. E andiamo a prendere appunto da East West con un suono lancinante e tanto memore di certe cavalcate progressive, e quanto di un suono che si sta spostando evidentemente dentro quello che poi saranno gli anni 80 e anche appunto dentro quel tecnopop che prima così citavamo vagamente. Pinà, infatti, da suo disco, insomma, importante, East West 1980, dopo che appunto abbiamo trovato David Borden per iniziare 451 nelle musiche sintetiche nel 1978. Thank you. Beh, seriamente straordinari, Control Bleeding che abbiamo ascoltato, gruppo che è riuscito, un'impresa a dir poco epocale, seppur insomma conosciuti ma mai abbastanza, Control Bleeding, perché forse fin troppo eclettici e quindi anche fuori da molti schemi che per quanto insomma legati poi a categorie di musica sperimentali, in primis insomma Control Bleeding, e forse anche a veduta ragione, visto i primi due dischi incredibilmente violenti di Power Electronics, con un concretismo portato veramente a dei livelli incredibili, quasi di saturazione del suono, e pur con una maestria nel lavorare con il rumore che forse soltanto pari a Merzbow, mi sto riferendo ai loro primi due dischi super storici, Body Sample e Niven Bone, dischi veramente di grande eccezionalità per chi insomma vuole approcciarsi al rumorismo, non può che non passare insomma da questi due gioielli appunto di ultraviolenza sonica, ma assolutamente controllata, assolutamente gestita, come gestire veramente una macchina lanciata a velocità furiose, quella di Control Bleeding dei primi periodi, poi con Head Track intorno alla metà degli anni 80 si danno a un suono che è memore tanto dell'industrial, di quello insomma che con stessi Control Bleeding insomma fecero nei primi anni 80, e sia di molto jazz, le strutture anche nuce e dei primi lavori molto potenti, insomma avevano comunque strutture piuttosto complesse come appunto quelle jazzistiche, e il noise ovviamente, l'arte dello studio di registrazione e come strumento, quindi tutto il dub, e musiche che andavano verso insomma ritualismi o forse ritualità, ecco, senza mai approfondire insomma un piano ideologico che Control Bleeding ha sempre sfiorato volutamente, ma non ha mai voluto approfondire, anche in questo senso insomma non è stato di riferimento, come invece molti gruppi che dell'industrial poi sono diventati anche punto di riferimento di certe così ricerche più o meno esoteriche, e Dark Ambient che ha attraversato anche un grosso periodo di Control Bleeding fino ad arrivare a una musica quasi da camera, però profondamente disturbata da cupezza, appunto da un suono ambientale decisamente scuro, forse vicino a Zema Alemianni, storico disco, altrettanto storico di SPK. Control Bleeding che avevano anche tra le corde quel progressive alterato sia di Pina, probabilmente con un riferimento anche chiaro nel suo leggere insomma i tornado cosmicheggianti del francese, come ovviamente poi essendo americani e anche un'idea oltre che un'attitudine legata a un suono sintetico anche vicino a certo David Borden, a certi appunto Modern Mallard. È una faccenda insomma che nei primi anni 80 in America fu assai interessante, quella di coniare anche una nuova forma di concretismo, allontanandosi quindi anche dall'industrial inglese e quello europeo, per forse anche una maggiore trattamento del suono concreto che appunto Control Bleeding fecero insieme, e anche appunto a questi quasi armeggiamenti, si potrebbe dire, cosmicheggianti, e para comunque paranoise, insomma non paranoici, anche se quello è stato sfiorato anche ogni tanto da Control Bleeding, un'attitudine che si è sviluppata anche attraverso formazioni eccezionali, progetti come Rhythm and Noise, vicini al alla, anzi dentro la Ralph Record, che riuscirono a trattare un po' come Control Bleeding, un rumore anche piuttosto altisonante, quasi ingestibile. Rhythm and Noise forse si sente ancora di più quella, sia quella gestualità che le avvicina appunto a certe neoavanguardie, al Fluxus, sia a quel, a quella complessità, anche quella arzigogolo se vogliamo in alcuni casi, di certo prog, anche se molto paradossalmente, perché sia Control Bleeding che Rhythm and Noise poi appunto saranno più vicini, seppur in una maniera assolutamente singolare, loro all'industrial, ma l'industrial appunto americano ha anche appunto una via piuttosto particolare e anche piuttosto interessante, proprio per la faccenda che stiamo trattando su questa sera, e non solo, anche per qualità squisitamente musicali, ovvero le musiche sintetiche di 451. Andiamo a prendere quindi Rhythm and Noise dal loro splendido primo disco, che tra l'altro a proposito di Europa, di una certa Europa sperimentale decisamente inquieta, vedeva anche la collaborazione di una Diamanda Galas piuttosto ispirata, che sentirete soltanto in lontananza, perché insomma Rhythm and Noise non volevano, e c'era anche fortemente il rischio che la Galas coprisse insomma le sperimentazioni, e quindi utilizzate anche in maniera parsimoniosa, qualcuno potrebbe dire anche poco utilizzate, in realtà è dentro questo flusso rumorista complesso, paragezzistico e noise appunto della formazione di Naught Human Content, Under Notice, appunto il disco da cui andiamo a trarre questo splendido brano di qualche minuto, 11 minuti di appunto grande sapienza e controllo appunto del noise, una sorta di sinfonia tra apocalisse quotidiane e apocalisse magari un po' più invece, come dire, larghe, un po' più epiche. assolutamente lancinante, quello di Rhythm and Noise, che con il loro primo disco raggiunsero veramente grandi vette nel sinfonismo noise. Abbiamo sentito appunto come si possa arrivare a trattare il rumore in maniera brutista ma assolutamente raffinata, se vogliamo veramente c'è una struttura seriamente sinfonica. D'altronde appunto rimanendo nei lidi americani, quelli noise, ultra noise, con Culture Bleeding, con Rhythm and Noise, non si può non citare altra formazione incredibile, altro progetto aperto assolutamente eccezionale come Memmonist, dal Colorado, una musica assolutamente di diffusione come quella appunto di Culture Bleeding, di Rhythm and Noise, e tra noise, ultra noise, industrial e suoni legati a esperimenti sonori, musiche di fatto sintetizzate anche dentro momenti anche di free, se poi pensiamo che poi Memmonist si trasformeranno in Biota, anche avvicinandosi a certo post Canterbury Sound, a Chris Clutter, e quindi a tutta insomma la diaspora di Henry Cow, e partecipando anche a varie compilazioni. E nel disco che andiamo a trattare questa sera, disco veramente eccezionale di Memmonist, appunto Biota, che darà poi il nome anche al progetto del disco immediatamente successivo di Memmonist, anzi del progetto Memmonist, anche se poi Memmonist continuerà come gruppo legato più che altro a performance teatrali e forse anche di insomma, arte totale. Biota invece sarà più musicale, pur non perdendo appunto quell'esperimento sempre legato comunque a un'idea molto molto larga di sound art e di soprattutto esperimento sonoro. Andiamo appunto a prendere una meravigliosa cavalcata veramente eccezionale appunto di Memmonist, il loro album Biota, tanto per capire ancora di più quanto e per godere anche di un ascolto che se vogliamo è anche doloroso e piacere nel dolore appunto di suoni ultra noise, che poi tra l'altro insomma sono stati anche superati in termini di brutismo anche all'epoca forse da certe formazioni come White House o dalla Power Electronics, però lì magari c'era veramente un impatto più punk oppure più brutista. Qua invece c'è una costruzione veramente legata al sinfonismo, un sinfonismo chiaramente non più classicheggiante, ma quello legato insomma ai grandi esperimenti delle avanguardie, soprattutto influenzate dal futurismo. Beh, per come dire, augurare ancora un buon ascolto e quindi rimanere insomma incollati alle vostre radio, ai vostri impianti, insomma quali che siano, appunto Memmonist con il loro Biota.